Dietro la notizia di Gianfranco Fabi. Buongiorno, buona settimana ai nostri ascoltatori. Cominciamo questa settimana parlando di spese. L'apertura del Sole 24 Ore in famiglia, spese tagliate. Oggi con il Sole 24 Ore è offerta anche la prima guida al low cost di qualità che riguarda proprio la spesa. E l'articolo di commento a questa inchiesta è di Paolo Legrenzi. Buongiorno professor Legrenzi. Paolo Legrenzi insegna psicologia cognitiva all'Università di Venezia, è un attento osservatore delle dinamiche sociali e delle scelte personali, come si intrecciano le dinamiche sociali con le scelte personali, con un particolare interesse ai comportamenti economici e forse di economia. Si sta parlando in questa fase perché si cerca di fare economia, cioè di risparmiare. Infatti Paolo Legrenzi intitola il suo articolo Il ritorno della frugalità e mette anche all'interno di questo articolo un nuovo termine, il Fruga Italy, quasi un nuovo motto che coniuga il lusso, che è un elemento tradizionale del Made in Italy, con la ricerca invece di una spesa inferiore ma senza perdere di vista la qualità. Allora, Paolo Legrenzi, siamo di fronte a una svolta sociale sul fronte della spesa? Sì, in certo qual modo una svolta sociale, ma anche un ritorno all'antico, perché se uno pensa, almeno in una prospettiva globale, al Made in Italy, così spontaneamente associa il concetto di Made in Italy a oggetti lussuosi, alta moda, automobili da corsa che vincono i campionati del mondo, cose di questo tipo. Ma in realtà in Italia esiste anche una cultura della frugalità, di cui abbiamo visto molti esempi ed è molto nota, quale è quella di molte culture, diciamo, che sono passate recentemente da uno stadio contadino a uno stadio industriale. L'Italia ha fatto questo passaggio più tardi dei paesi anglosassoni, quindi queste due culture coesistono ed è interessante vedere poi in concreto come si traducono in comportamenti sui punti di vendita, nella vita quotidiana e così via. Ecco, ma cos'è che ha fatto cambiare, professor Legrenzi, un po' la prospettiva negli ultimi anni? Cioè questa frugalità è data forse da una eccessiva soddisfazione del benessere in certi ambienti e dall'altra parte da una necessità da altri ambienti che hanno visto ridursi il potere d'acquisto. Esistono queste due dimensioni? Sì, esistono e si intrecciano. Nel senso che c'è un aspetto, diciamo, più costrittivo, più obbligato di far tornare i conti, e questo è un problema, ma c'è anche un aspetto in realtà di saturazione probabilmente di un certo mondo della pubblicità, delle marche. Vi spiego, quando una persona sceglie un prodotto in concreto ha tre fonti di fiducia, deve fidarsi, può fidarsi di chi? Del negoziante, del commerciante. Per migliaia di anni questa fiducia è stata prevalente, da 6.000 anni, da quando è nato il commercio grosso modo. Poi può fidarsi della marca, cioè della qualità del prodotto che da un secolo a questa parte viene garantita dalla marca. Io so che quel prodotto è buono perché l'ho usato, mi fido. Infine, e questo è un punto più sottile legato al low cost, può anche fidarsi del canale di vendita. Io so che vado lì e troverò dei prodotti buoni, non il prodotto che ha il nome X e Y, ma il prodotto che è stato selezionato col canale. Ecco, questo è un fatto un po' diverso dal precedente, è un fatto culturale di fiducia di un canale che nella fattispecie, poi data l'assetto delle distribuzioni di beni, può essere un canale in cui i beni costano molto meno, perché ovviamente non c'è tutto il costo della notorietà delle marche. Grazie professore, io sentirei un ascoltatore vicino a lei, lei è a Venezia, Raul da Padova, buongiorno. Sì, buongiorno, quindi io sarò estremamente conciso e dopo voi farete la conclusione. Io porto a casa da 1530 euro di stipendio, ho 30 km da andare a lavorare, vado in bicicletta con vento, piova e neve, non importa perché devo risparmiare. Sono sposato, ho due figli di 7 e 2 anni, 830 euro di mutuo, 320 euro di spese alimentari, bollette e 50-60 euro di benzina. Ho accumulato in questi anni quasi 15.000 euro di debito, perché? Perché esistono anche i dentisti, una carie o un impianto costa più di 1.000 euro, di fatto tutto è stato aumentato dal latte alla marca da bollo, è stato fatto il cambio con i numeri alla pari, ma lo stipendio non è stato portato a quello che doveva essere, io portavo 3.000 euro. 3.200.000 lire. La ringrazio di questa testimonianza, una testimonianza molto realistica. Allora, professor Grenzi, esiste veramente questo problema della quarta settimana nel bilancio delle famiglie italiane? Esiste veramente. In Italia poi esiste in una maniera, come posso dire, particolarmente spiccata, particolarmente sentita, particolarmente subita, perché stante il fatto che ampie fasce di stipendi di lavoro dipendente non sono saliti come potere d'acquisto, e questo è avvenuto contemporaneamente al passaggio all'euro, si è avuta l'impressione, dato che i due fenomeni sono avvenuti contemporaneamente, che questo sia anche da imputarsi al cambio dell'unità di misura del valore dei beni. E questo naturalmente perché è stato un fatto grave? È stato un fatto grave nella percezione delle persone, perché ha permesso anche fenomeni in cui effettivamente, rispetto a una situazione in cui avessimo tenuto lo stesso sistema di riferimento, questi rincari sono stati molto molto alti, e non sono, torno al problema di prima, beni di lusso, talvolta, come nel nostro intervento che abbiamo appena sentito vicino a casa mia, questi hanno toccato beni di prima necessità. Ecco, ma questo effetto euro di cui si parla appunto ogni tanto, in fondo è avvenuto 6 anni fa, professor Legrenzi. Dobbiamo veramente pensare che ancora ci sia un effetto euro sulla dinamica della spesa, sulla dinamica dei prezzi? Forse lo scalino che c'è stato al momento dell'ingresso della moneta unica per alcuni beni c'è indubbiamente stato, dovrebbe essersi quasi fermato successivamente, oppure è diventato un leggero aumento come è per gli altri beni, ovviamente escludendo i beni come la benzina, che hanno subito forti oscillazioni al rialzo o al ribasso. Quindi esiste ancora, professor Legrenzi, un effetto euro nella psicologia degli italiani? A guardare i dati dell'eurobarometro sì, in certo qual modo poi questo si può capire perché esista, al di là dei dati oggettivi, che in realtà in Italia non sono, diciamo, molto fuori linea rispetto al resto d'Europa, ma nella percezione delle persone l'Italia era il paese che aveva più fiducia nel passaggio all'euro, più aspettativa, più entusiasmo, più speranze, perché non connesse al fatto che l'Italia l'entrata in Europa è vista molto positivamente. Ora le persone, almeno a vedere i dati dell'eurobarometro, cioè di cosa pensano dell'euro, si è passati da una situazione di accettazione, anche non dico entusiastica, ma molto positiva, a una situazione di grande delusione, perché le persone fanno fatica ad arrivare a fine mese. Siccome questo non è dovuto necessariamente, il problema è un problema squisitamente di percezione. Lei può pensare che i prezzi salgono o può pensare che il suo stipendio non è cresciuto, le due cose sono collegate. In realtà gli stipendi del lavoro dipendente in Italia non sono saliti, a differenza delle generazioni precedenti negli ultimi anni, questo per tanti motivi, io non sono anche un esperto e quindi non voglio entrare in questa problematica, ma le persone fanno fatica di conseguenza arrivare a fine mese perché i prezzi sono saliti, ovviamente. Tra l'altro sono saliti di più per i bilanci, questo è un punto molto importante rispetto alla telefonata, sono saliti molto di più per i bilanci più, diciamo, stretti e più controllati come quello del nostro ascoltatore. Sì, che comunque rappresentava, mi sembra, una famiglia media, perché uno stipendio, certo, appunto, di 1.500 euro è un po' lo stipendio medio di una famiglia italiana in cui una persona lavora, poco più se lavorano due persone. Sentirei Tancredi da Roma, buongiorno. Buongiorno, senta, io due cose dico, che due osservazioni che incidono sul bilancio familiare. La prima è che vorrei che voi faceste come state facendo con Alitalia, cioè ogni giorno voi dite che Alitalia perde 2 milioni di euro. Ecco, io vorrei che ogni giorno voi diceste che il prezzo della benzina è lo stesso, è rimasto invariato, nonostante il prezzo del barile del petrolio si sia dimezzato rispetto ai 140 euro. Una cosa. La seconda, velocemente, io quest'estate stavo in un family hotel in Austria e stavo vedendo che tutte le famiglie con 3-4 bambini erano straniere. Poi l'ho capito perché negli altri paesi c'è una politica che favorisce la famiglia. Le dico questo esempio: un pacco di Pampers, perché io ho due bambini piccoli, un pacco di Pampers, lo stesso tra l'Italia e l'Austria, la differenza è che in Austria costa quasi 6 euro in meno. E io parto dai pannolini, ma si figuri sostanzialmente il resto. In Italia chi ha figli, no, velocemente, in Italia chi ha figli viene considerato un ricco e viene purtroppo penalizzato. Nei paesi stranieri i figli sono considerati una ricchezza e la famiglia viene favorita su questo. Grazie a lei, quindi dalla benzina ai pannolini. Sulla benzina, se mi permette professor Legrenzi, rispondo io. Noi abbiamo parlato a Radio 24 spesso negli ultimi giorni del prezzo della benzina, abbiamo segnalato che il prezzo non è vero che è rimasto fermo, è diminuito, però non è diminuito abbastanza rispetto a quanto consentirebbe la riduzione di prezzo del petrolio che è venuta sui mercati internazionali. Abbiamo sentito anche esperti che ci hanno confermato questo fatto, che la discesa del prezzo del carburante alla pompa c'è stata, ma c'è ancora spazio per un'ulteriore riduzione di prezzi. Ovviamente dobbiamo tener conto che sul mercato petrolifero internazionale c'è una grande volatilità, ci sono grandi cambiamenti di prezzo da un giorno all'altro, e che quindi che questa caduta fino a sotto gli $80 per il prezzo del petrolio al barile può non essere una caduta definitiva, e quindi le compagnie si tutelano in qualche modo. Ma quindi incalzeremo comunque le compagnie sottolineando la possibilità di ulteriori riduzioni di prezzo alla pompa. Invece sulla famiglia sentirei il professor Legrenzi. Beh, tutti gli esperti, io non sono più un esperto di questi, ma tutti gli esperti che hanno studiato a fondo questo problema, in sintesi, mostrano che in Italia c'è apparentemente una grande retorica della famiglia, però poi nei bilanci quotidiani, nell'operatività, nel mantenere una famiglia, non c'è dubbio che l'Italia è molto penalizzata. Noi usiamo quasi tutte le nostre risorse di welfare, cioè di benessere che viene dato, in realtà nelle pensioni, come ben sappiamo, nella sanità, la famiglia non ha nessun appoggio da un punto di vista di bilancio. Poi c'è il problema che io seguo da anni, perché anch'io ho avuto bambini e così via, per esempio i pannoloni, è giusto quello che ha detto, i pannoloni hanno un differenziale enorme, non so spiegare perché, di costo tra l'Italia ed altri paesi, quindi queste spese quotidiane di una famiglia media, come abbiamo sentito il primo intervento, sono quelle che sono state più colpite dal rincaro dei prezzi. Infatti, adesso l'Istat ci fornisce due parametri e si è visto che l'inflazione per la famiglia, probabilmente per queste due famiglie, è un'inflazione del 6-7%, cioè molto alta. Ma questo è vero anche, professor Legrenzi, per alcune scelte che spetterebbero al pubblico, alla pubblica autorità, diciamo così, per esempio le facilitazioni per i viaggi sui treni, per esempio gli ingressi sui musei. In Italia non c'è un'attenzione alla famiglia in questa prospettiva, forse perché la famiglia media italiana ormai è fatta di un figlio unico. No, intanto siamo il paese del mondo che fa meno bambini, quindi non è un problema molto sentito, è come la scuola, se lei non ha un figlio a scuola e se non è uno studioso argomento, non è particolarmente interessato al problema. Facendo pochi bambini, io sono moltissime persone interessate ai pannoloni, questo è abbastanza ovvio. Poi, più in generale, c'è una scissione tra la retorica della famiglia, che viene, diciamo, super difesa, anche contrariamente a famiglie che non obbediscono agli standard e ai parametri di famiglia tradizionale, che sono invece difficoltate in Italia, cioè che contano ostacoli. A fronte di questa retorica non ci sono, come hanno detto giustamente, perché tutti e due i due interventi sono di padri di famiglia, eh? Uno che va a lavorare in bicicletta e ha dei figli che deve mantenere, e l'altro che si riferiva al confronto con le vacanze estive, dove ha visto altre famiglie che invece dal confronto vedeva lo svantaggio della famiglia italiana. Questo è un dato che tutti gli studiosi più esperti di me hanno evidenziato in dettaglio. E la ringrazio, se può restare con noi adesso diamo spazio anche alle informazioni, non per chi va in bicicletta ma per chi va in automobile. Tariffa nobile di Dynamiting, l'energia che ti serve. 800 900 3900. Vi presenta Che strada fa? Il traffico è bloccato sull'autostrada del Sole tra Colleferro e Danagni verso Napoli. C'è stato un incidente, si è ribaltato un autotreno, si sono formati già 4 chilometri di coda. La polizia stradale di Fiano Romano consiglia di uscire allo svincolo di Valmontone o di Colleferro, chiusi da poco in entrata verso Napoli. Code per un altro incidente, 5 chilometri lungo la 14 Adriatica tra Faenza e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Sono rimasti rimasti coinvolti i mezzi pesanti. Le difficoltà questa mattina a Torino sulla tangenziale nord, ci sono code tra Brugliere e Corso Regina Margherita verso la 4 Torino-Milano per il recupero di mezzi rimasti incidentati, code però anche in direzione opposta dalla 32 Torino-Bardonecchia a partire da Caselle fino a Corso Regina Margherita, e poi le difficoltà per chi arriva dalla tangenziale sud a partire da Debuscè, ci sono incolonnamenti. Sulla 10 Genova-Savona si resta in coda per un incidente tra Genova-Pegli e l'innesto con la 7 Milano-Genova verso il capoluogo ligure. Sulla Roma-Fiumicino code dopo un incidente risolto tra via della Magliana e Parco dei Medici verso Fiumicino. Molto trafficate le autostrade e le tangenziali intorno e verso le principali città, e a Milano in città c'è stato un grave incidente, ci sono disagi in via Caracciolo all'altezza dell'incrocio con via MacMahon. Guidate con la massima prudenza, il prossimo appuntamento alle 9.45. Promo 24. Le piccole e medie imprese del Veneto sono le prime a poter usufruire dei vantaggi previsti dalla legge regionale 10/2007 sulla previdenza complementare. Se sei titolare di una PMI con sede nel Veneto e hai investito per favorire l'adesione dei tuoi dipendenti ai fondi pensione, puoi beneficiare dei contributi a fondo perduto che la Regione del Veneto mette a disposizione. Il bando è aperto fino al 12 novembre. Informati subito, visita il sito www.regione.veneto.it oppure telefona allo 0 41 29 19 311. Campagna dell'assessorato al bilancio della Regione del Veneto. Dietro la notizia. Buongiorno, bentornati a Dietro la notizia. Parliamo di spese, parliamo di famiglia, parliamo di consumi, ne parliamo con Paolo Legrenzi, professore di psicologia cognitiva all'Università di Venezia. Marco da Firenze, buongiorno. Grazie a 24, Radio 24, che posso dire anche io qualcosa. Volevo dire insomma anche a tutti gli italiani che io ho una ragazza, abbiamo due figli, lei e la mamma è tedesca, e pur non essendo sposati la Germania ci dà a noi 400 euro al mese a fondo perduto, perché appunto 180 euro per il primo figlio e 220 per il secondo. Questi soldi gli arrivano direttamente sul conto corrente alla posta in Germania e lei le va a prendere. Sono soldi che ce li danno non una volta al mese, all'anno, tutti i mesi, fino a che i bambini non saranno grandi, che vanno al lavoro o che hanno finito gli studi. Pensi un po', attualmente ci stanno dando, loro, la Germania, 5.000 euro all'anno. La ringrazio per questa testimonianza, professor Legrenzi. C'è un problema anche di assegni familiari, lei lo diceva, il welfare italiano è molto spostato sulle pensioni e poco sui bambini. Questa in fondo è la testimonianza, il sistema tedesco è diverso. Io ho un allievo che sta in Germania, anzi continua a stare in Germania con i bambini. Potrei andare avanti mezz'ora a elencare tutte le differenze, lui ha elencato solo l'assegno, ma tutte le differenze a favore, in concreto, di una coppia che ha due bambini, ad esempio, a Berlino o a Firenze, e le assicuro che sono numerevoli. D'altronde, non è un problema recente, perché ricordo che il professor Nicola Rossi, anche professore di orientamento, come posso dire, politico diverso, adesso recentemente il professor Tito Boeri, hanno scritto due opuscoli relativi al, non solo al welfare, anche in generale alla cultura in Italia rispetto al benessere. Uno è intitolato Più ai figli e meno ai padri, e questo è lo titolo identico. In Italia sono favorite le persone come me, per la verità. Cioè, la ringrazio. Senti, Emanuele da Pistoia. Sì, pronto. Pronto, buongiorno. Rapidamente, se può. Per quanto più rapidamente possibile. Si parla di percezione come di un fatto puramente psicologico. Io constato che la mia pensione mi consente un valore d'acquisto che è esattamente la metà di quello che io avevo al tempo della lira. Quando contesto a un prestatore d'opera o al venditore di un servizio, di qualche bene, e ricordo il prezzo in lire, mi viene risposto sprezzantemente: la lira non esiste più, e l'euro viene tradotto a 1.000 lire. Aggiungo, il problema è anche fiscale, nel senso che solo una volta da questa radio che io ascolto regolarmente ho sentito ricordare che l'evasione fiscale in Italia è di 1.000 milioni di euro. Bene, solo una volta ho sentito ricordare che siamo i primi in Europa per l'evasione fiscale. Solo una volta ho sentito ricordare che l'evasione fiscale in Italia corrisponde al 25% del PIL. Credo che se il tormentone che è stato fatto sull'Alitalia fosse ripreso per dire che tutti i giorni 3 miliardi di euro vengono sottratti dalle tasche di chi è costretto a pagare le tasse dai nostri evasori, forse ci aiuterebbe un pochino la gente a difendersi dal furto che viene perpetrato. La ringrazio anche del consiglio, se fosse utile adesso studieremo anche questa ipotesi. Ecco, sull'Alitalia sono dei dati certi, l'evasione sono sempre dati stimati, ma è certo che l'evasione in Italia ci sia e ovviamente porti con sé il fatto che chi paga le tasse ne paga di più di quanto dovrebbe se pagassero tutti le tasse. Ma professor Legrenzi, tornando alla prima parte della domanda, è cambiata anche la composizione dei consumi negli ultimi anni, dagli anni 90 a questo primo decennio del millennio in cui c'è l'euro? Forse il paragone con il prima dell'euro dovrebbe tener conto anche di altri fattori che non solo della moneta. Professor Legrenzi. Non c'è dubbio. Adesso devo spezzare una lancia da psicologo e da studioso a favore della percezione. Spesso sui giornali, sui media, si dice è percepito così, vuol dire che questo è un cosa fantastico, irreale, ma non è vero. Se lei, voglio dire, va a percezione a temperatura, se lei va fuori quando fa molto secco a parità di temperatura, oggettivamente l'organismo prova meno freddo e così via. Oggettivamente la percezione dei diversi aumenti del costo della vita è dovuto alla differenza dei panieri. Quando dicono una persona l'inflazione media in Italia è 3%, questa è per l'appunto una media. Ma in Italia, un paese che ha situazioni diversissime da un punto di vista anche geografico, voglio dire, costi della vita diversissimi, basta che uno viaggi da un posto a quell'altro, e quindi ha differenziali diversissimi dei costi dei beni. Io posso pagare, uscendo da casa mia, abito a Venezia, un caffè, il doppio in un percorso che faccio ogni mattina, cioè 8 bar, posso pagarlo da 100 a 50, questa è l'oscillazione che c'è. Quello che voglio dire, e voglio rivendicare la giustezza dell'intervento dell'ultimo intervento, è che in realtà nel caso per esempio di alcune pensioni di alcuni tipi di paniere di beni, in genere proprio quelli più modesti, il rincaro è stato molto più alto del rincaro medio del costo dei beni, perché tocca delle spese ineludibili per tutte le persone che sono finora intervenute. Grazie mille, grazie professor Legrenzi, dobbiamo chiudere qui. Ringraziamo Paolo Legrenzi, docente di psicologia cognitiva all'Università di Venezia, che ha scritto oggi Il ritorno della frugalità sul Sole 24 Ore. Abbiamo parlato di spese, consumi, risparmi, bilanci familiari, anche in occasione dell'uscita del primo volume dedicato al low cost, oggi con Il Sole 24 Ore, ma di questo parleremo ancora in Salvadanaio alle 12 con Deborah Rosciani. Grazie e l'appuntamento per domani.